Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Come un angelo mi porti lontano. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan, perché osserviamo l'attualità e leggiamo le notizie attraverso un filtro speciale, il nostro rapporto con l'animalità, il rapporto tra la società umana e le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 740, parleremo di cavalli uccisi nel Viterbese, di agnelli esposti appesi per le zampe in chiesa, del supplizio dei cani bassotti spinti dalla razzializzazione a soffrire di mal di schiena a vita. Ci sarà spazio per un appello del rifugio Agripunk e per il lemma S come suono nella rubrica di cinema di Emilio Maggio. La ricetta vegana e il sound sono a cura di Gabriele Palloni. Nascosto qui, sì. Vediamo se mi trovi e cosa scoprirai di me. Prendiamo la prima notizia dalla rubrica animalista La Zampa su La Stampa Online, sul quotidiano La Stampa Online. La notizia ci porta nella Tuscia Viterbese, dove sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco 4 cavalli che da qualche giorno vagavano nel territorio di Tarquinia, in provincia di Viterbo. I 4 cavalli, infatti, sono stati oggetto di un'ordinanza istituzionale firmata il 27 marzo scorso dal sindaco di Tarquinia per, questa è la motivazione, eliminare rischi per la pubblica incolumità determinati dalla presenza nel comune e in prossimità di strade di questi animali. L'OIPA evidenzia come il primo cittadino avesse ordinato un intervento che prevedeva operazioni atte a recuperare gli animali con il relativo ricovero in strutture idonee, mediante l'utilizzo di apposite tecniche di sedazione e solo in estrema ratio, ma solo qualora si fosse reso necessario, l'abbattimento, col solo fine di garantire la pubblica incolumità. Vogliamo vederci chiaro, dichiara l'OIPA, vogliamo sapere se sono state messe in atto tutte le azioni necessarie a un recupero incruento e quali fossero gli effettivi e immediati pericoli per la pubblica incolumità che hanno giustificato questo brutto finale. Alla luce dei fatti, non escludiamo ulteriori azioni. Su questo caso sono intervenuti anche Italian Horse Protection, un'associazione che seguiamo da anni, l'Ente Nazionale per la Protezione Animali, l'ENPA, e la Lega Antivivisezione, LAV, lamentando di aver tentato ripetutamente e senza successo di contattare le autorità locali, cioè il Comune di Tarquinia, la Polizia Municipale, la ASL e i Carabinieri, per avere informazioni ufficiali, che sono doverose stante l'estrema gravità dei fatti. Quindi c'è omertà, c'è silenzio, c'è opacità rispetto a quello che può essere accaduto. Le 3 associazioni animaliste giudicano l'accaduto come un fatto di una gravità inaudita, non solo per le modalità ma anche per le tempistiche. L'ordinanza sarebbe del 27 febbraio e il giorno dopo, il 28, i cavalli sono stati uccisi. Nell'ordinanza c'era scritto che i cavalli vagavano da giorni, ma nessuna richiesta di aiuto era stata diffusa dal comune, nessuna associazione era stata allertata e contattata. Se semplicemente si è passati alle vie di fatto in un tempo ridottissimo. Dicono le associazioni, non c'erano certamente i presupposti per un provvedimento di questa gravità, potendosi organizzare con associazioni e professionisti competenti un intervento per il contenimento degli animali e la loro messa in sicurezza. Italian Horse Protection e LAV a loro volta sporgeranno denuncia nei confronti di chi sarà identificato come responsabile di quello che sembra configurarsi come un abbattimento illegittimo di animali. È successa una cosa veramente inaudita. Un agnello legato ai piedi è stato appeso ed esposto durante una funzione religiosa per le celebrazioni di Pasqua nella chiesa di Santa Maria del Soccorso a Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia. Se queste antiche, barbare, sanguinarie tradizioni continuano a persistere nel nostro paese, ci sono per fortuna anche nuove voci, nuove sensibilità e un nuovo senso di giustizia in emersione. Vanno in questa direzione nuova, per fortuna, alcuni blitz antispecisti che nei giorni di Pasqua sono stati realizzati in chiese, sì, proprio in chiese, a Trieste, a Milano, a Palermo, contro il massacro degli agnelli. Troviamo molto molto interessante il fatto che alcune attiviste antispeciste del collettivo Ribellione Animale in queste tre città, ripetiamo Trieste, Milano e Palermo, abbiano preso la parola prima dell'inizio delle funzioni liturgiche, denunciando la sofferenza e le 376.000 morti di agnelli che avvengono in Italia solamente nel periodo di Pasqua, all'unico scopo di riempire i piatti. Per dare quindi un segnale contrario all'abominio e allo sfruttamento compiuto ai danni degli animali, le attiviste di Ribellione Animale portano nei loro discorsi e nelle immagini dei loro cartelloni la storia di Utopia, un'agnellina di appena un mese salvata dal mattatoio di ovini più grande d'Europa, quello di Acqua Pendente, in provincia di Viterbo. Utopia, spiegano gli antispecisti, è stata salvata da volontarie del rifugio Hope, che hanno documentato l'arrivo di camion carichi di agnelli e che hanno avuto la facoltà di dialogare con la struttura insistendo per farsi cedere uno tra i più di 300.000 agnelli che dovevano essere macellati. Un operatore del mattatoio ha accettato la loro richiesta, è entrato nella stalla e tra tutti gli agnellini in attesa di essere uccisi ha scelto una piccola di appena un mese e gliel'ha portata. Ora l'agnellina vive felice e libera presso il rifugio Hope, ma è testimone di un sistema di morte che ha annientato migliaia di suoi simili, cuccioli come lei, innocenti quanto lei. Le attiviste hanno voluto chiamarla Utopia e noi speriamo che questa agnellina possa cambiare nome e diventare realtà. E adesso trasmettiamo un appello. Voi sapete che il cuore della lotta antispecista sono i rifugi per animali recuperati dalla schiavitù, dallo sfruttamento. Questi animali sono i testimoni di un sistema di morte ed è molto importante che i rifugi ci siano, che i rifugi siano aperti, che le persone possano visitarli, che possano incontrare questi animali sottratti alla non vita alla quale erano destinati. In particolare noi sosteniamo AgriPunk, un rifugio nato in un allevamento di tacchini che è stato chiuso grazie agli sforzi di questi eroici attivisti. Aiutiamo AgriPunk a resistere. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi che non mi capivi. Sospesi insieme sul filo sottile di queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore. Che cos'è il mio amore. Ciao, buongiorno a tutto e grazie per questo spazio. Io sono Desiree Dez di AgriPunk. AgriPunk, per chi non lo conosce, è un rifugio antispecista che nasce dalla chiusura di un allevamento intensivo di tacchine 10 anni fa. Allevamento che allevava e mandava al macello circa 30.000 animali ogni 3 mesi. Appunto, noi siamo riusciti a farlo chiudere 10 anni fa e siamo riusciti a farcelo dare in affitto e trasformarlo in rifugio, appunto, dove abitano numerose specie e dove creiamo momenti di diffusione sulle lotte intersezionali. Noi abbiamo comunque poi appunto avuto problemi con il proprietario e ci sono degli interessi per riprendere l'allevamento, quindi insomma stiamo portando avanti questa battaglia perché il rifugio possa rimanere dov'è. Abbiamo quindi aperto una raccolta fondi per le spese relative agli animali e per l'affitto del posto, perché appunto se non saldiamo gli affitti arretrati, che al momento sono 5 mesi, quasi 6, rischiamo di andare incontro a un'altra causa per sfratto, nonostante quella già in corso. E quindi abbiamo aperto questa raccolta fondi su Eppela, si può trovare nel nostro sito che è agripunk.com e nella sezione SOS, che la raccolta fondi si chiama appunto SOS AgriPunk. Sempre sul nostro sito si trovano le altre maniere per aiutarci con una donazione, in più appunto per coinvolgere un po' tutte le persone che ci seguono, che hanno a cuore insomma le sorti del rifugio. Abbiamo chiamato un'assemblea online su Zoom l'11 aprile alle 20, cui siete tutte invitate a partecipare per portare le vostre idee e per darci una mano, ecco, in questa nostra nuova ma perenne fase di resistenza contro la riapertura di questo allevamento intensivo. Per richiedere il link per partecipare è possibile mandare un'email ad agripunkonlus@gmail.com. Sui nostri canali social, Instagram e Facebook, trovate tutte le info relative alla raccolta fondi, relative all'assemblea e relative anche alle varie iniziative che durante il mese di aprile e maggio ci saranno sia al rifugio che in altri spazi, in altre realtà, per sostenere le spese, il mantenimento di tutte le soggettività, le persone di altra specie che vivono qui in questo luogo, sperando che con l'aiuto di tutte si riesca a rendere definitiva questa conversione di spazi una volta dedicati allo sfruttamento. Vorrei fermare subito sto treno, vorrei saperlo fare, vorrei saperlo fare, vorrei che fosse tutto un po' più lento. Vorrei saperlo fare, dilatare il tempo. Vorrei bruciarmi e nascere di nuovo. Vorrei proteggerti da questo vento. E prima di sparire giù all'inferno, vorrei che fosse eterno questo momento. Sembra che la Germania stia pensando di proibire certi cani di razza, per la precisione i cani bassotto. E gli animalisti, molti animalisti, anche noi per la verità, condividono questa scelta in quanto i cani bassotto sono cani Frankenstein. Zampe troppo corte, una schiena troppo lunga rispetto alle proporzioni del corpo. Anche i bassotti, leggo un articolo che è uscito su questa vicenda, potrebbero rientrare tra le razze soggette al divieto di riproduzione in Germania. L'ultima bozza della legge sulla protezione degli animali mira infatti a reprimere quel tipo di riproduzione di cani di razza che comporta caratteristiche somatiche che causano dolore, sofferenza o danni fisici. Questo potrebbe includere non solo i cani brachicefali, quelli con il muso piatto, e i cani toy, quelli extra small, ma anche il cane bassotto a causa delle gambe corte classificate come una anormalità. Nella proposta di legge pubblicata a febbraio e attualmente all'esame delle autorità tedesche vengono elencati una serie di sintomi che non dovrebbero più essere riprodotti, tra cui ci sono i seguenti: l'assenza di pelo, la ridotta aspettativa di vita, le anomalie del sistema scheletrico, le malformazioni dei denti. Ma non è solo il bassotto a poter entrare nella lista vietata, ci sono anche bulldog inglesi e francesi, i carlini, i boxer, i barboncini toy, ma anche cocker spaniel, gli schnauzer, i beagle, a cui potrebbe essere vietata la riproduzione in Germania, il che inevitabilmente alimenterà un mercato parallelo estero. Molti dei cambiamenti proposti, come la regolamentazione del commercio online di animali o l'adozione di misure contro il commercio illegale di cuccioli, hanno senso, ha scritto il Kennel Club tedesco in una nota. La salute e la qualità della vita degli animali devono avere la priorità, ma le caratteristiche fisiche vietate dovrebbero essere prima discusse con esperti sulla base di fatti scientifici. E ci verrebbe da dire cosa c'è di più scientifico, se non il fatto che ogni razza canina ha le sue patologie, tant'è che nei manuali di veterinaria le patologie vengono divise per razze ed è evidente quindi che scientificamente le trasformazioni necessarie per spingere una certa razza ad avere certi uniformi aspetti somatici porta a delle problematiche di salute. Bassotto, torniamo all'articolo, è una razza storicamente allevata in Germania con il nome di Dachshund, cioè cane da tassi, perché è adatta alla caccia di animali da tana e già questo ci dovrebbe dire qualcosa rispetto alla utilità e quindi anche alla conformazione che è stata fatta assumere forzatamente a questo povero cane. Gli inglesi lo chiamano ironicamente The German Salsiccia Dog, il cane salsicciotto, e sebbene oggi sia solo al decimo posto tra i cani preferiti in Germania, ha almeno 400 anni di storia alle spalle. Il bassotto fa parte del patrimonio culturale tedesco, ha detto alla CNN Marion Michelet, presidentessa del club per cani Deutscher Tackle Club di Berlino-Brandeburgo. Il nuovo progetto di legge è esagerato. Ed è proprio per questo che c'è già una vasta mobilitazione contro questo disegno di legge, con una petizione Salviamo il bassotto che ha già raccolto 13.000 firme. Il Ministero dell'Agricoltura tedesco ha negato che ci siano già elencate delle razze specifiche da vietare, ma la nuova legge è chiaro che deve preservare gli animali dalle malattie degenerative, dato che è evidente che l'origine dei problemi di salute di questi animali sono gli incroci sempre più estremi. E se si guardano le immagini storiche di fine Ottocento, il bassotto aveva le zampe molto più lunghe e il busto molto più corto rispetto a oggi, nonostante avesse già la sua caratteristica conformazione a, diciamo così, salsicciotto. Ovviamente nel nostro caso sarebbe un salsicciotto di seitan. Ed è per questo che gli animalisti di PETA ritengono che gli unici bassotti legali dovrebbero essere quelli che escono dai canili e sono assolutamente favorevoli a bloccare la riproduzione selettiva. Perché nessun cane, dice PETA, merita di avere la schiena allungata di un bassotto che può causare dolori articolari, collasso spinale o sopportare la disperata lotta per respirare di un bulldog francese. PETA sostiene gli sforzi per impedire che altri cani sofferenti nascano in un mondo già pieno di cani senza un tetto, cani da adottare. Quindi meglio l'estinzione. E noi della redazione di Restiamo Animali siamo d'accordissimo con PETA. Questi sono casi in cui l'estinzione è un atto compassionevole. Abbiamo affrontato già da anni il tema della razzializzazione dei cani. Nella home page del nostro blog restiamoanimali.it trovate un ciclo di podcast a cura del veterinario Massimo Raviola. Sono storie di animali che mettono in luce le conseguenze della selezione razziale praticata sugli animali domestici, quindi malattie, disfunzioni, malformazioni proprie delle singole razze, sofferenze che gli animali sono obbligati a sopportare e sofferenze e grandi spese anche per i loro compagni umani. Questo nostro ciclo è un invito alla riflessione e al ripensamento di una pratica, quella della selezione razziale, accettata come normale, ma che normale non è. No animals were harmed in the making of this film. Nessun animale è stato maltrattato durante le riprese di questo film. Questo disclaim, che quando andiamo al cinema vediamo apparire nei titoli di coda, è ormai famoso in tutto il mondo. Ma è davvero così? Davvero gli animali che vediamo nei film non sono stati maltrattati? In che modo vengono scelti? Chi li procura? Chi li addestra? E soprattutto come? Ha senso mandare un messaggio a favore degli animali utilizzando animali addestrati? A queste e a tantissime altre domande ha cercato di rispondere una nuova rubrica di Restiamo Animali in più puntate, che ci è stata proposta e che viene curata dal nostro filmologo di fiducia, Emilio Maggio, e che procede in ordine alfabetico. Oggi vi proponiamo il lemma S come suono. Questa volta andiamo direttamente alla lettera S come suono. Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere, l'aforisma conclusivo del trattato logico-filosofico scritto da Wittgenstein e pubblicato nel 21 a seguito della mattanza della Prima Guerra Mondiale, esprimeva i limiti del linguaggio umano, impossibilitato a comunicare qualcosa che ha a che fare con l'indicibile, lo sceno, ovvero ciò che rimane al di fuori della scena sociale, fuori dalle coordinate che danno senso alle comunità fondate sulla politicità dell'animale umano. Il nuovo film di Jonathan Glazer, La zona di interesse, vincitore di 2 premi Oscar, premiato all'ultimo Festival di Cannes, si domanda e domanda a noi spettatori quali siano le immagini giuste per rappresentare la cosiddetta soluzione finale, organizzata, pianificata e resa operativa fin nei minimi dettagli dal regime nazista. Il filmmaker inglese concentra il suo apologo in un spazio circoscritto, le cui coordinate designano una zona che interessa la limitrofia, il confine cioè che separa la civiltà dalla barbarie, per esempio, per essere più precisi, l'umanità dall'animalità, intesa qui come un processo atto a qualificare individui più vicini alle bestie che agli uomini, limitrofia che assume la dimensione di essere l'unico orizzonte di senso. La tenuta dove risiede il gerarca nazista Rudolf Hoss insieme alla sua famiglia modello, composta da moglie, figli e inservienti ebrei, è adiacente infatti al campo di sterminio di Auschwitz. L'intero film è strutturato sui suoni, le grida, i comandi, i rumori che arrivano dal campo e che noi spettatori associamo, immaginiamo alla carneficina che scandisce la monotonia quotidiana della famiglia del comandante, le faccende domestiche della servitù, le colazioni, i pranzi, le cene, l'accudimento dei figli, la cura del giardino rigoglioso di piante e fiori, i bagni in piscina, i ricevimenti di amici e parenti. Non vediamo nulla, così come nulla vedono i componenti della famiglia tedesca. È chiaro che per estensione il microcosmo rappresentato rimanda alla cecità di un intero popolo che non voleva né poteva vedere cosa realmente stava succedendo nei vicini territori occupati dell'Europa orientale. Glazer dunque ci rende partecipi dei terribili fatti solo attraverso il suono, o detto in termini audiovisivi, il sonoro. L'importanza del film risiede proprio in questa sua paradossalità. Non solo viene rimessa in discussione la memoria storica per come è arrivata fino a noi, ma anche la memoria cinematografica. Più che dal muto al sonoro, uno dei passaggi decisivi per l'industria cinematografica, si dovrebbe parlare di passaggio dall'assenza di suono alla presenza di suono. Bisognerebbe cioè riscrivere la storia del dispositivo cinematografico prescindendo dal linguaggio. Il finale del film, in cui improvvisamente irrompono immagini di repertorio che testimoniano l'attuale museificazione dell'Olocausto, significano proprio questo: la celebrazione ha scalzato inesorabilmente l'evento indicibile, in quanto pur avendo oggi a disposizione quelle immagini che allora non si dovevano, potevano vedere, siamo semplici spettatori all'interno di una galleria d'arte. Per essere coerenti con il senso di questa rubrica, allora, più che chiedersi quali siano le immagini giuste, per cui si finisce col giustificare qualsiasi cosa appartenente alla dimensione storica, legittimandone in qualche modo l'eterno ritorno in guisa di tragedia, bisognerebbe optare per la loro necessità. Le immagini, come dimostrano quelle prodotte dalle investigazioni degli attivisti per la liberazione animale, come dimostra anche il recente report Food for Profit ad opera di Paolo D'Ambrosi, di Giulia Innocenzi, a cui l'Hub ha contribuito con le proprie inchieste, che focalizza l'indagine sugli allevamenti intensivi ricorrendo a sequenze davvero insostenibili, uso questo termine di proposito per provocare un'analogia con l'indicibile di Wittgenstein, diventano necessarie quando in ballo ci sono questioni che non si possono ignorare né tantomeno omettere o dimenticare. E questa è la zona di interesse a cui siamo obbligati a prestare attenzione. Per tornare alla premessa iniziale, cercare l'immagine giusta, come fa per esempio Garrone in Io Capitano, è impresa fallimentare, in quanto, come diceva Godard, non esiste un'immagine giusta, esiste solo un'immagine, quella sonora. La zona di interesse, oltre ad aggiudicarsi l'Oscar per il miglior film internazionale, ha ricevuto anche la statuetta per miglior sonoro, conferito a Mika Levi, cantautrice e compositrice britannica. Mika Levi non è una semplice realizzatrice di colonne sonore, Mika Levi è una vera e propria regista del suono, quindi tutto torna. Abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di dedicare la sua ricetta della settimana alla Tuscia Viterbese, una terra tanto splendida quanto spietata nei confronti degli altri animali, in particolare nei confronti dei cavalli. La Tuscia Viterbese che ci piace è quella in versione vegan, cruelty free, senza derivati animali. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dalla Tuscia un'antica ricetta per portare in tavola un originalissimo dessert, i maccheroni con le noci. Gli ingredienti per 4 persone sono 250 g di pasta lunga di semola, tipo tagliatelle, spaghetti o reginelle, 120 g di noci, 50 g di zucchero di canna, 80 g di cioccolato fondente, 30 g di cacao amaro in polvere, 30 g di pan grattato o biscotti veg sbriciolati, un pizzico di cannella in polvere e un pizzico di sale. Cuocete la pasta in abbondante acqua leggermente salata. Nel frattempo tritate le noci ed il cioccolato fondente grossolanamente. Versate il tutto in una ciotola capiente, aggiungete il pan grattato o i biscotti, lo zucchero, il cacao amaro, la cannella e il sale. Quindi mescolate bene. Scolate la pasta e unitela ancora calda al condimento, in modo che mescolando faccia sciogliere il cioccolato. Aggiustate di zucchero, versate il composto in una pirofila o una tortiera o uno stampo da plum cake. Livellate la superficie con un cucchiaio e coprite con la pellicola. Fate riposare in frigorifero per una notte. Una volta pronto, decorate con scaglie di cioccolato e granella di noci e servite a fette. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. È tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. La nostra redazione è composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 741 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.